sei. Non sento dentro me un pianto rinascere, ma non è possibile senza te. Cerco te, non dormo, navigo, naufrago oceani infiniti, tutto sembra inutile, poi la brezza un brivido e trovo te. Tu sei me, amore, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai. Dove sei? Ma chi sei? Non sento dentro me, proprio in me, un pianto. Io vorrei rinascere, ma non è possibile senza te. Cerco te, proprio te, non dormo, navigo, naufrago oceani infiniti, tutto sembra inutile, poi la brezza un brivido e trovo te. Tu sei me, spirito, amore, nai, na, non nai, na, non na, nai, na, non nai, na, non na. Tutto sembra inutile, poi la brezza un brivido e trovo te. Tu sei me, spirito, amore, nah.